9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci cari ascoltatori, buona giornata, buon giovedì 18 di marzo. Puntata dedicata all'avvicinamento dell'appuntamento con le urne regionali. Lo abbiamo fatto e non lo abbiamo fatto, perché fino a pochi giorni fa in realtà c'erano dei vincoli presi sull'informazione. Noi abbiamo dedicato il più delle puntate a denunciare, a mio modestissimo avviso, l'errore che ha rappresentato mettere quei vincoli, errore da cui la RAI non si è ancora ripresa, ma poi superando finalmente i vincoli di quella sciocca decisione, a mia opinione, abbiamo iniziato a mettere a fuoco alcuni temi di questa campagna delle regionali un po' singolari, perché la mia opinione è che si sta andando al voto con una probabilità di determinazioni generali, sapete che io non posso citare i sondaggi comunque, quindi una probabilità di esiti che comunque compone un quadro molto diverso da quello che fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa, il più degli osservatori della stampa avrebbero accreditato. Vi invito a riflettere per esempio sui titoli dei due quotidiani che rappresentano senza dubbio la prima fila della stampa militante a favore del centrodestra e del premier Berlusconi, il giornale è Libero. Sul giornale di questa mattina, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, che certo dalla scorsa estate non si è fatto mancare occasioni per interpretare in maniera energica, a mia opinione troppo energica, ma questa è la mia opinione, l'endorsement al premier, spingendolo a essere talvolta ancora più duro e tosto di quanto non sia, invece che più rotondo nei confronti dei moderati. In ogni caso, oggi c'è un editoriale di Vittorio Feltri che parla di vietato astenersi al referendum sul Cavaliere, e la cui ultima frase non lascia spazio a molti dubbi. O Silvio o il diluvio, scrive Vittorio Feltri, non c'è alternativa. Il non voto è un voto per chi ha impedito al governo Berlusconi, come Zucchi colpi bassi, di essere all'altezza delle aspettative popolari. Scrive Feltri, conosco l'obiezione al mio ragionamento. E allora come dobbiamo comportarci? Appoggiare ancora il PDL che è un po' laio, con due galli in eterno conflitto, un governo claudicante per i calci che gli rifila l'opposizione? Già, scrive Vittorio Feltri, l'interrogativo sta in piedi. E come sta in piedi? Ma per riflettere, qui non bisogna dare una delega in bianco al centrodestra, occorre solo dargli una spinta. Insomma, sostiene Feltri, il referendum sul CAV è vietato astenersi. La cosa però che conferma la mia opinione, a mio giudizio, è l'inizio del pezzo di Vittorio Feltri, in cui egli ammette: sento che qualcosa non gira per il verso giusto. Forse per la prima volta in 15 anni c'è gente che storce il naso e non ha voglia di andare a votare PDL. Naturalmente, quando lui parla di gente, ha in mente solo la gente sua, quella della sua parte, quella che vota Berlusconi, gli italiani per bene, ovviamente, non quelli che vogliono i perfidi dell'opposizione al governo. Ecco, si può pensare quello che si vuole di questo giornalismo militante e bastonatore, io dalla scorsa estate così lo chiamo Vittorio Feltri, del resto io sono un moderato e penso che il problema dei moderati sia quello di costruire Corriere della Sera, non dei Popoli d'Italia in piccolo. Ma la novità è che se Vittorio Feltri parla così, anche Libero di sicuro preme il piede sull'acceleratore. Berlusconi, un piano per ammazzarmi. Ecco di cosa si lamentava il premier intercettato: volevano farmi un attentato fuori da Palazzo Chigi, a Ghedini e famiglia spediscono buste con proiettili. E sarebbero queste le nuove intercettazioni pubblicate, anche il giornale ne dà notizia, pagina 2-3, con Giancarlo Innocenzi, il commissario dell'autorità di garanzia per le comunicazioni, nelle quali il premier, per così dire, dava l'interpretazione autentica del perché bisognava fermare Santoro, non tanto per le opinioni politiche che esprimeva, l'unilateralità e la faziosità dei suoi programmi, quanto perché in questa maniera alimentava una campagna d'odio. E nelle intercettazioni, nei suoi colloqui telefonici con Innocenzi, Berlusconi lamentava come per effetto di questa campagna d'odio erano giunte minacce a suo figlio, sapendo dove andava a giocare a calcetto, c'erano state informative alle forze dell'ordine su ipotesi di attentati nei suoi confronti. Qui stiamo parlando di un periodo precedente ovviamente all'episodio che poi avviene in piazza del Duomo a Milano, in cui a Berlusconi arriva davvero un duomo di metallo in faccia, e ricordate bene con quali danni per lui e con quale anche eco nell'opinione pubblica. Comunque quello che conta è che anche in questo caso l'interpretazione del centrodestra, a mia opinione, descrive e conferma l'ipotesi che stiamo dando un voto con esiti che possono essere molto diversi da quelli attesi. In molte regioni, non è un mistero, sondaggi o non sondaggi, che le aspettative sono attualmente molto diverse da quelle che il centrodestra nutriva. La domanda è naturalmente perché. Con i nostri ospiti oggi approfondiremo questo quadro che si è creato. È un quadro di sorpresa vera, se lo aspettava poi davvero il PD, al di là, diciamo, dei toni di circostanza della campagna elettorale, o invece, tante volte l'abbiamo detto, la leadership di Bersani era una leadership di transizione, in attesa di vedere un po' che cosa poteva venire fuori da queste urne, e il quadro potrebbe essere migliore delle attese. Poi ancora altri elementi, quello istituzionale, ieri la nota del capo dello Stato che dice che bisogna rispettare insieme i PM e gli ispettori, ottima linea di meditas istituzionale, ma come si fa a rispettare insieme gli ispettori e i PM di Trani se c'è chi pensa che i PM di Trani in realtà abbiano incardinato un'ipotesi di inchiesta che non sta proprio in piedi, come fattispecie del codice penale, e che sia del tutto strumentale ai fini della campagna elettorale? E se la si pensa così, è chiaro che si manda subito gli ispettori, come ha fatto il ministro di giustizia, e non può che essere polemica verso chi ha incardinato quell'inchiesta, il capo della procura, verso chi come PM Ruggero l'ha messa in piedi per mesi ascoltando. E come si fa a essere insieme d'accordo con gli uni e con coloro che vengono mandati contro gli uni a Trani? È ovvio che il capo dello Stato fa il suo giusto dovere istituzionale, ma quando poi al TG2 il Premier ieri sera commenta e dice il Quirinale appoggia me e sconfessa i PM, ecco che c'è chi reagisce dicendo il Presidente del Consiglio va fuori dal seminato. E quindi la difficoltà poi di avere una linea di equilibrio istituzionale quando in questa campagna elettorale, come mai, ma come sempre negli 15 anni precedenti, la magistratura a giocare il ruolo di ariete fondamentale, diventa molto difficile. Poi terzo elemento, l'astensionismo, lo abbiamo visto, temuto, oramai esplicitamente temuto dal centrodestra nel proprio campo, qualcosa vorrà dire, non lo faremo con i sondaggi, ma è Feltri che mi dà la possibilità di farlo. Di tutto questo parliamo intanto in questa prima parte con due ospiti che sono protagonisti della politica e sono anche protagonisti di un tono moderato della politica, e questo mi piace da una parte e dall'altra. Io li ringrazio molto di essere qui con noi oggi. Sono Nicola Latorre, vice capogruppo del PD al Senato. Buongiorno senatore Latorre. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E Gaetano Quagliariello, vicepresidente vicario del PDL al Senato. Buongiorno Quagliariello. Buongiorno. Posso cominciare con Latorre chiedendolo se lo aspettava di essere a questo punto in campagna elettorale con uno scenario così? Sinceramente sì. Io credo che questa campagna elettorale all'inizio è stata segnata sostanzialmente da due fatti. Il primo, un fatto squisitamente politico. L'onorevole Berlusconi aveva deciso di puntare tutto su una campagna elettorale in cui fossero rimossi i temi regionali e si cercasse di fare un referendum sull'attività del governo, trascurando qualsiasi altra iniziativa politica, non preoccupandosi di costruire nelle regioni alleanze larghe e competitive, e soprattutto non partendo dalle esigenze dei territori e per costruire poi su queste delle alleanze politiche. E questo, secondo me, aveva già condizionato negativamente per il centrodestra la campagna elettorale, perché di contro con Bersani dopo il congresso noi invece ci siamo posti il problema non di fare diventare questa una campagna elettorale per decidere se il governo Berlusconi deve andare avanti o non deve andare avanti, perché non è questo il problema. Noi semmai, e qui non c'è dubbio, quando votano tante persone il segnale politico, il valore politico c'è, ma questo c'è in tutti i paesi occidentali, perché quando ci sono le elezioni cosiddette di medio termine sono sempre un passaggio politicamente significativo. Noi volevamo che questo passaggio elettorale mandasse un segnale al governo circa la insoddisfazione del paese su come si sta governando l'Italia, ma nello stesso tempo ci siamo posti il problema di proporre alle popolazioni regionali coalizioni le più ampie possibili, le più rappresentative, in grado di affrontare il vero tema di cui non si sta per nulla parlando in questa campagna elettorale, cioè che noi stiamo entrando in una nuova forma di Stato con un assetto federale nel quale i governi regionali avranno un ruolo cruciale e decisivo. E dunque questa impostazione della campagna elettorale mi faceva pensare che il centrodestra sarebbe andato in difficoltà. Cosa è successo successivamente? Intanto che si è preso sempre più atto che il giudizio degli italiani sull'attività di governo di questi due anni, anche da parte dei tanti che hanno votato per il centrodestra, è un giudizio non positivo. In secondo luogo è il Presidente del Consiglio, che diciamo ha sempre un polso della situazione, ha capito che c'era questo clima e la sta buttando in caciara. Non vuole far parlare dei problemi del Paese, non ci vuole fare parlare dei governi regionali, ci vuole fare parlare dell'unico grande questione per lui, che è il tema del complotto della magistratura, dei comunisti, della sinistra, pluto giudaico massonico contro la vittima Berlusconi. Però temo, La Torre, che ad avere cambiato le coordinate della campagna, che almeno gli osservatori, i media, si aspettavano, lei dice di non essere molto sorpreso, non sia stato appunto tanto il dibattito o le caratteristiche delle coalizioni, dei candidati e dei programmi nelle regioni, ma evidentemente la cifra con cui siamo arrivati a questo, i magistrati che hanno negato l'ammissione di alcune liste, i magistrati, le intercettazioni prima di quella della presentazione delle liste, quelle dopo, durante, quindi alla fine è un po' stata questa la cifra. Per il momento di sicuro non si parla molto delle caratteristiche locali del voto. A Quagliariello la stessa domanda: si aspettava una campagna preregionale di questo tipo? Come è possibile concluderla con toni di moderazione? Cioè, al centrodestra conviene la moderazione o conviene a questo punto un appello alle piazze in vista della manifestazione? Ma soprattutto, io ho usato feltri perché evidentemente bisogna chiedere agli elettori di non avere dei dubbi e di turarsi il naso di fronte a una scelta che potrebbe altrimenti avere poi delle conseguenze che nessuno poteva immaginare solo a un paio di mesi fa. Lei come la pensa? Ma mettiamola così, io penso che ci sia molto rumore. Innanzitutto, Giannino, io le dico quali sono le mie previsioni, per intenderci su che cosa vuol dire vincere o perdere. Come lei sa, noi in questa tornata elettorale partiamo dal governare due regioni. Io penso che moltiplicare questo numero, cioè vincere in quattro regioni, sia un pareggio. Sotto questo aspetto sia una sconfitta, sopra sia politicamente una vittoria. Mi sembra onesto, a dire la verità, sì. Ecco, soprattutto se parliamo di grandi regioni. Sì, sì. Ecco, detto questo, io penso che noi avevamo tutti l'interesse ad una campagna più tranquilla, nella quale si potesse ragionare e discutere di più e valutare meglio le cose. E francamente credo che alcuni organi di stampa della nostra parte non ci hanno dato una mano in questo. Ho un'analisi, direi, antitetica a quella del senatore Latorre, perché vede, noi abbiamo preso il governo del Paese in un momento estremamente difficile, stava iniziando la crisi economica più dura degli ultimi 50 anni e il centro-sinistra, Prodi, e il suo governo, devo dire nemmeno per responsabilità di Prodi e Padoa-Schioppa, diciamo le cose con un minimo di lealtà, ma per la rissosità della coalizione che li sosteneva, avevano perso due anni nei quali il vento dell'economia spirava fondamentalmente a favore. In questa crisi l'Italia era destinata a fare la fine della Grecia, lei lo sa perfettamente, per queste contingenze, per il suo debito pubblico, per le sue situazioni strutturali. Grazie al governo, grazie a Tremonti, abbiamo tenuto la barra dei conti, l'abbiamo fatto senza che la pressione fiscale aumentasse, l'abbiamo fatto quindi senza mettere le mani in tasca a nessuno e l'abbiamo fatto anche tenendo una certa coesione sociale, come mai in passato. Io penso che forse qualche analisi in più sul fallimento dello sciopero della CGIL forse era necessaria che anche la stampa la facesse. E in tutto questo abbiamo risolto bene, molto bene, le emergenze dei rifiuti e l'emergenza dell'Aquila. Come vede, io non alzo i toni, ma Giannino, lei darà atto che due anni fa si parlava del modello Zapatero come se fosse una specie di punto di riferimento. Vediamo come è ridotta la Spagna oggi o la Gran Bretagna, per non parlare della Grecia, e ammettiamo che l'Italia è, grazie a questo governo, ha retto molto meglio. Noi oggi non abbiamo più il monopolio che avevamo del debito pubblico, questo è pure un problema sui mercati, ma è un dato di fatto di cui dovremmo in qualche modo essere orgogliosi, o quantomeno non dimenticarcelo. Vede, in questa situazione insomma ci sono state delle esasperazioni che hanno, secondo me, avuto l'obiettivo di far dimenticare tutto ciò. Sciascia avrebbe detto che è stata mascheriata l'azione del governo, è un termine siciliano che vuol dire sporcata, e questo lo si è iniziato a fare all'Aquila, dove si è fatto un vero e proprio miracolo, perché l'inverno aquilano non è l'inverno che c'è a Fasano dal senatore Latorre. E lì o si facevano le case oppure non c'era conferenza stampa o altro che avrebbe retto, e le case si sono fatte. Ecco, tutto questo poi si è accentuato con il problema delle liste. Se vuole ne parliamo anche nel merito di questo problema, non mi tiro indietro, perché quello che Latorre ha detto in Senato è molto molto parziale. Se non riuscite a presentare le liste, come governate il paese? Mi sono pronto a confrontarmi su questo tema con il senatore Latorre. E poi quello che è peggio, e io qui vorrei francamente, con moderazione, una parola da garantista da parte di Latorre, è quello che è successo a Trani. Ma chi è che la sta buttando in caciara? Ma insomma, qua siamo tra persone colte che hanno studiato un po' di storia e sanno che cos'è uno Stato e che cos'è uno Stato di diritto. Ma quando mai si è visto che il Presidente del Consiglio non possa alzare il telefono per paura che le sue parole siano riportate sui giornali il giorno dopo? Questa è una cosa che fa venir meno qualsiasi possibilità di governo. Latorre ha avuto qualche problema con il telefono e ha avuto la solidarietà del centrodestra. Si può rendere conto, se il problema viene portato al vertice del governo, cosa significa questo? Bene, ora la interrompo perché poi dopo la pubblicità che adesso mandiamo, torniamo con Latorre a due quesiti di fondo. Primo, questa cosa di Trani, che secondo me è diventata un po' la sintesi finale delle polemiche. Però, ripeto, quello che mi aspetto di approfondire ulteriormente è questa cifra di giudizio di nuovo finale che si chiede su Berlusconi. Dice Vittorio Feltri che questa campagna elettorale è diventata decisiva, un sì o un no a Berlusconi. Se dopo 15 anni al proprio elettorato, perché l'appello è rivolto a quello del centrodestra, quello di dire serrate i ranghi per Berlusconi, la mia impressione è che al di là del mascariamento, come ha detto Quagliariello, sul governo e sul suo operato, ci sia un punto di fondo, perché se inizia ad entrare in crisi un punto del rapporto profondo tra Berlusconi e il suo popolo, che è un rapporto diverso da quello di un capo partito con un partito tradizionale, lo sappiamo da 15 anni, è profondamente diverso, lì forse allora si apre una questione nuova rispetto al quindicennio che abbiamo alle spalle, sempre che questa sia davvero una delle cifre del prossimo voto regionale e non stiamo tutti magari prendendo un abbaglio. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questa tornata regionale in cui poco o nulla si parla di candidati, alleanze e programmi per le regionali, e molto si parla invece di polemiche che hanno investito all'inizio con indagini, intercettazioni, il Premier. Poi l'aspetto sulle liste respinte, inadeguate dal punto di vista dei requisiti del centrodestra a Roma e a Milano. Poi questa nuova indagine di Trani con nuove intercettazioni. E infine il tema dell'astensionismo. Infine l'ammissione che l'astensionismo può colpire con gli appelli che vengono oggi dal direttore del giornale all'elettorato del centrodestra a turarsi il naso e andare a votare assolutamente per Berlusconi, perché è una questione di vita o di morte. Quindi un appello agli ex elettori di Forza Italia a non abbandonare Silvio nelle urne. Infine abbiamo sentito le opinioni di La Torre. Mi aspettavo una campagna di questo tipo, volevano parlare d'altro e alla fine gli è scoppiata un po' in mano, e di Quagliariello che dice, qui però c'è il tentativo di non parlare di quello che abbiamo davvero fatto e di non far ricordare i rischi che correvamo all'inizio di questo governo e come li abbiamo saputi evitare, far evitare all'Italia nel mondo nella crisi dell'euro debito e della Grecia. Ci ha raggiunto per qualche minuto Renato Mannheimer, gli sono molto grato perché così possiamo chiedere a una delle persone più autorevolmente esperte di tastare il polso da molti anni agli italiani di dirci, sia pure nei limiti con cui lo si può fare in questo periodo, se la sua sensazione, professor Mannheimer, è che questo tema dell'astensionismo dei moderati, degli elettori di Forza Italia, sia artefatto, una creazione dei giornalisti, una creazione di chi è vicino a Berlusconi per tentare di fronteggiare una campagna elettorale dai toni imprevisti e dagli esiti imprevisti, e quindi per alzare il tono e poi provare a avere un risultato un po' diverso da quello che oramai si è diffuso a sua volta nelle aspettative, diverso da quello di due mesi fa, oppure se invece è un tema che si percepisce per davvero nelle intenzioni e nelle opinioni di una fascia di elettorato moderato, al punto tale da poter rappresentare una delle grandi sorprese dell'appuntamento elettorale. Qual è ciò che lei percepisce davvero, al di là delle chiacchiere dei giornalisti, di professor Mannheimer? Buongiorno. No, non si tratta di un tema inventato, diciamo meglio, c'è una grande disillusione, delusione nell'elettorato, nei confronti dei politici e della politica. Questo colpisce di più l'elettorato di centrodestra che quello di centrosinistra, ma colpisce anche quest'ultimo ed è trasversale. Il grande interrogativo è se questa delusione si trasforma in astensionismo. Per ora c'è qualche segnale, modesto devo dire, non siamo a livello francese, che questo sia possibile, ma davvero questa è una cosa che si decide in questi giorni. Non a caso Berlusconi ha reagito in questo modo, perché chi si astiene non lo decide 15 giorni prima, chi si astiene decidendolo all'ultimo momento. E quelli che ci hanno detto nei sondaggi che stanno maturando l'astensione, stanno appunto maturandola e si riservano di decidere. Quindi di qui questa svolta della campagna elettorale in questo momento. Però l'oggetto c'è, la possibilità di astensionismo c'è. Ora, storicamente noi avevamo una tendenza sempre più forte alle elezioni locali, amministrative, piuttosto che alle politiche, cioè quella di una parte dell'elettorato moderato che sente meno rispetto alle politiche, diciamo, dove si decide il governo nazionale, il dovere di esprimere comunque la propria opinione. Comunque una parte di astensionismo moderato nella campagna per le regionali, nei voti delle regionali, c'è sempre stata più elevata del mondo moderato. Lei dice questa volta c'è una componente maggiore, ma se dovessimo farne una stima approssimativa, non di coloro che hanno già deciso, ma di coloro che prima della decisione hanno espresso l'ipotesi di valutare con attenzione anche l'idea di non andare a votare nel mondo moderato, più o meno di quanto stiamo parlando, professore, secondo lei? Del 30-40% che hanno pensato di farlo, poi tutto l'interrogativo è quanti lo faranno per davvero. Beh, 30-40%... anche di fronte a una decisione ancora da assumere, beh, certo può rappresentare una cifra di forte impatto. E un'ulteriore cosa, poi la lasciamo andare, professor Mannheimer. I sondaggi di formazione delle opinioni prima del momento decisivo consentono anche di apprezzare una disaggregazione così precisa, per cui per esempio le intenzioni di voto della Lega Nord, che molti si aspettano essere invece una cosa che andrà bene comunque, anche se non si vince in Piemonte col candidato leghista, sono comunque significativamente tali da poter essere anche quello uno degli elementi nel campo dei moderati, dico, del voto? Sì, certo, la Lega sembra andare in questo momento benissimo, anzi potrebbe essere che si prenda un po' di voti del PDL, perché l'elettore PDL un po' deluso in questo periodo per tutto quello che succede, una parte guarda la Lega come un partito vero. Quello che vorrei sottolineare è che al di là del fenomeno astensionista esiste un momento di disaffezione nell'elettorato, di stufaggine vorrei dire, della politica molto forte, che magari si tradurrà nell'astensionismo, magari no, ma certo è un distacco dei cittadini dalla politica come nel corso della fine della prima Repubblica, molto forte, che non va assolutamente sottovalutato. Io ringrazio il professor Mannheimer e giro a questo punto alla Torre le domande che gli poneva innanzitutto Quagliariello sull'indagine di Trani, per ricordare esplicitamente dove avevo interrotto Quagliariello, e anche su questo aspetto. Voi non avete l'impressione che nel PD, al di là di tutto, comunque l'effetto possa colpire anche voi? Intendo particolarmente che poi una campagna che motiva soprattutto le parti oltranziste, giustizialiste, quelle che riducono di nuovo Berlusconi al fenomeno del famigerato violatore di ogni legge, portano ovviamente a un certo tipo di interpretazione del proprio ruolo politico. Se penso, onorevole Latorre, che all'inizio della predisposizione per le alleanze c'era nel PD chi diceva piantiamola un po' col vecchio schema, vediamo di portarci a casa un'alleanza organica con i cattolici dell'UDC e cambiamo e articoliamo proprio in questo l'offerta agli elettori, a cominciare dalla Puglia, tanto per essere chiari, no? E se penso a come la deve pensare questo sviluppo, chi nel PD era di quell'idea, qualche interrogativo e qualche risposta esplicita, al di là della campagna elettorale, e mi rendo conto dell'obbligo di dover essere diplomatici, la Torre, a questi interrogativi che risponde? Ma gli interrogativi che lei ha posto e che anche in relazione alle considerazioni di Quagliariello e da ultimo alle riflessioni che faceva il professor Mannheimer sollecitano una serie di considerazioni, ma io vorrei andare per ordine. Innanzitutto io credo che l'atteggiamento che il Partito Democratico ha avuto in relazione all'inchiesta di Trani, così come in relazione a tutte le inchieste giudiziarie, continua ad essere un atteggiamento sobrio, rispettoso del lavoro della magistratura, altrettanto geloso di una difesa dell'autonomia della politica, e anche noi insistiamo per cercare di evitare che la vicenda giudiziaria entri a gamba tesa nel confronto e nello scontro politico. Ho la sensazione che questa è più una iniziativa del Presidente del Consiglio e del centrodestra che, per non voler parlare tanto dei problemi del Paese, è chiaro che amplifica, enfatizza elementi contenuti all'interno di questa vicenda che dal punto di vista penale non spetta a noi in alcun modo valutare. Dal punto di vista squisitamente politico segnala un problema, e cioè l'iniziativa del Presidente del Consiglio tesa a spegnere delle voci all'interno del servizio pubblico, non a criticarle. Chi vi parla, il sottoscritto, rispetto ad alcune trasmissioni televisive, ha avuto un atteggiamento fortemente critico, molto critico. Ciò non toglie che un Presidente del Consiglio non può agire con questa pesantezza su organi istituzionali come la GCOM per spegnere una trasmissione, tra l'altro ben sapendo che è il Presidente del Consiglio e guarda caso anche il proprietario delle reti televisive che dovrebbero essere concorrenti al servizio pubblico. Dunque, rispetto a questa vicenda, noi abbiamo un atteggiamento di assoluta sobrietà e non abbiamo nessunissima intenzione di farne un uso politico. D'altro canto è l'atteggiamento che noi abbiamo sempre avuto anche rispetto ad altre vicende giudiziarie che hanno riguardato anche esponenti del centrosinistra, penso a quello che è accaduto in Puglia, una vicenda che probabilmente anche potrà avere in queste ore, in questi giorni, anche degli sviluppi a quanto si sente. E nonostante questo noi non abbiamo amplificato, enfatizzato, utilizzato questi argomenti per condizionare la vicenda e il confronto politico. Dopodiché, quanto a distacco dalla politica, le cose che giustamente segnalava il professor Mannheimer, mi pare abbastanza chiaro: se la politica, se il confronto pubblico da tanto tempo è concentrato soltanto attorno alle questioni giudiziarie e attorno anche al referendum del Presidente del Consiglio, in una situazione di estrema difficoltà del nostro Paese rispetto alle vicende della vita quotidiana delle persone, ma come volete che la gente si appassioni alla politica, che partecipi attivamente? Questo è un problema. Un'ultima questione, mi sentivo di dire, su questo tema dell'astensionismo. Io non credo che l'astensionismo sarà di proporzioni francesi a queste elezioni. Ritengo però che, siccome da molti anni, se si studiano i flussi elettorali, non si noteranno mai, soprattutto nella cosiddetta Seconda Repubblica, da quando si è assestato questo tipo di bipolarismo, non c'è stato mai un trasferimento significativo di voti da uno schieramento all'altro. Ma ciò che ha determinato il risultato elettorale è stato sempre il tasso di astensionismo dei rispettivi elettorati. Questa non è una novità. Questo credo anch'io sia uno dei punti di fondo che fa cambiare il segno dell'elezione. Che fa cambiare il risultato elettorale. Dunque in Italia l'astensionismo, e io credo non soltanto in Italia, ha anche questo... questo valore politico. Io credo che dobbiamo ringraziare l'attore di questa osservazione finale, in particolare oltre a tutte le altre, perché è proprio ciò che fa spostare il pendolo, la divisione dell'elettorato di centrosinistra di fronte alle divisioni e alle contraddizioni e ai freni della coalizione quando era pronti a guidarla, la delusione di un certo tipo di elettorato dopo la vicenda, lo ricordate, 94, che azzoppa Berlusconi con l'avviso di garanzia, la Lega che va dall'altra parte e così via, e la delusione nel proprio campo a raffreddare una parte di elettori che a quel punto risulta decisiva per mancare al consenso per la battaglia dell'elettore mediano, tecnicamente si può dire così. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte di oggi dedicata alla campagna per le regionali, ai temi un po' a sorpresa, un po' i soliti, Berlusconi da mandare via le intercettazioni, ma un po' a sorpresa, cioè il punto interrogativo se una parte dell'elettorato di Berlusconi tradirà Berlusconi, questa volta deluso, e ci diceva la Torre, del resto la delusione in un campo o nell'altro alternativamente è quella che fa cambiare di segno alle coalizioni al governo nel nostro paese, e questo è un fatto, cioè, compromato poi dallo studio delle analisi dei flussi elettorali. Un po' di telefonate, sentiamo come la pensate voi a casa, che poi siete quelli decisivi al di là delle chiacchiere di noi giornalisti e delle opinioni dei politici. Secondo me le chiacchiere sono quelle dei giornalisti, la mia opinione è che i giornalisti non hanno aiutato e stanno aiutando sempre meno il paese a vivere questo maggioritario, sono i più tribali, i più estremisti, sono quelli che buttano il fuoco, sono quelli che poi dopo averlo fatto dicono ai politici: ah, ma voi non siete moderati. Ma io credo che ci sia un problema vero di credibilità del giornalismo oramai nel nostro paese, ma questa è la mia opinione, lo dico da minoritario cacciato da tutte le parti. Nicolò, cominciamo con Nicolò dalla provincia di Livorno, prego Nicolò. Buongiorno, volevo dire una cosa, un breve intervento. Dal 1994, da quando si è insediato Berlusconi, i giornali diventano illeggibili un mese prima delle elezioni, e ultimamente questa cosa è virata, perché ancora peggio, perché praticamente siamo in mano ai giornalisti e ai magistrati negli ultime due tornate elettorali. Però non ho ancora visto, sinceramente, da parte del centro-sinistra, questo mi dispiace un po', è quello che non mi porta anche a me a votare. Nelle ultime praticamente 5 tornate elettorali non ho mai votato, forse quest'anno è la prima volta che vado a votare, perché non si parla mai di programmi. Cioè, io mi sono imbattuto io sono toscano, e quindi mi sono imbattuto in un dibattito del candidato di centrosinistra alla Toscana, che ha fatto un monologo di un'ora su Berlusconi, cioè solo ed esclusivamente Berlusconi, e Berlusconni vincerà ancora questa volta, perché... Cioè, è impossibile, è solo pubblicità che viene fatta a Berlusconi, e questa volta sono contento che vinca. Quindi se sintetizzo, Nicolò, i giornali da una parte, che insieme alla magistratura, ma dice soprattutto i giornali, sono protagonisti in negativo delle campagne elettorali e la inducono a non votare, dall'altra però anche la sinistra troppo concentrata su Berlusconi e poco sui programmi. Queste le due osservazioni. Maria dalla provincia di Pistoia, prego Maria. Buongiorno dottore, concordo pienamente con quello che ha detto l'ascoltatore precedente, perché sono toscana anch'io, e qui si respira un'aria di perdita di PDL, sono tutti entusiasti. Però mi domando io, che vittoria è quella del PD se il PD pensa di vincere l'elezione solo per l'autogol del Premier? Cioè, non ci sono alternative, non c'è un'idea nuova, non c'è assolutamente niente, c'è solo l'anti-berlusconismo. Che razza di vittoria sarebbe comunque quella del PD? Grazie anche a Maria. Sentiamo Angela da Bergamo. Buongiorno, io sono d'accordo con quelli che mi hanno preceduto e premetto che ho votato un tempo sinistra e non ci voterò più perché mi viene l'orticaria a solo sentir parlare La Torre, D'Alema e compagnia bella che hanno governato a lungo e che hanno fatto i loro interessi, non certo quelli degli operai e della gente. Per fortuna ora ci sono i magistrati e le intercettazioni e anche i giornalisti. Che hanno... Quindi lei difende invece l'interpretazione più muscolare. Sì. Compagnia bella, che hanno permesso a noi cittadini di capire lo squallore delle persone che si occupano della cosa pubblica, che non è loro proprietà, ma è proprietà di noi italiani e che la usano malissimo, distruggendo tutto quanto. Per cui chi va a votare non so come possa partecipare, è un rebus, perché non ci sono politici di qualità, ci sono politici che rappresentano i loro interessi e non i nostri e non quelli degli operai che hanno raggiunto un livello che più basso di così non si può. Ok, sintesi di Angela, troppo poco attenzione ai ceti bassi, questo diceva Quagliariello, e viva in definitiva i magistrati e la stampa di sinistra che nel far risaltare con le intercettazioni e con intense campagne, immagino che lei sia una sostenitrice di Santoro, di Travaglio e così via, fanno risaltare i difetti terribili di questa classe politica al governo. Marco da Bologna infine. Marco, salve, buongiorno Giacchino. Dica. Sì, buongiorno. Niente, io volevo fare una domanda, cioè se durante la campagna elettorale non si parla dei programmi, ecco, con che tipo di pretesa si ha poi che poi le persone vadano a votare? Cioè è un paradosso, si parla sostanzialmente di niente e poi dici no, però lei deve andare a votare perché è un suo diritto. Ma in base a quali idee, quali valori io devo andare a votare? Io le dico, ho 32 anni, ho assolutamente un contratto a tempo determinato, incasinato, che fanno fatica a capirci anche i commercialisti nonostante sia laureato. E di questa cosa nessuno ne parla, però grazie Marco, grazie Marco, però lei ha sentito che ci sono altri ascoltatori che dicono si parla poi dell'aspetto, l'ultima ascoltatrice diceva è giusto che si parli dell'aspetto più fondamentale, cioè del fatto che poi al governo ci va chi si occupa dei fatti suoi, viva i magistrati e viva l'estremismo, c'è chi invece la pensa anche come lei, vedremo quanti come lei ci sono nel centrodestra e sarà rilevante poi la decisione finale di non andare a votare, quanti invece poi alla fine seguiranno l'appello di Feltri. Di tutto questo chiedo a Quagliariello, che non è intervenuto ancora per la seconda volta, di tirare un po' le file. Dovesse esprimere ciò, l'appello, non dico finale, ma di questa parte decisiva nella formazione del voto, nelle coscienze di chi ha molti dubbi, e dovesse farlo dal punto di vista di come lei interpreta il centrodestra, perché ormai poi ci sono centrodestra diverse, c'è gente nel centrodestra che strizza un po' l'occhio a propria volta all'astensionismo e pensa un dopo Berlusconi, c'è un'articolazione di fondazione, di correnti e così via, ma dal suo punto di vista invece come si può a quell'elettorato moderato che potrebbe essere la vera difficoltà vostra, se non si convince ad andare a votare, convincerlo ad andare a votare, perché bisogna puntellare per l'ennesima volta Berlusconi dopo 15 anni come dice Feltri o perché cos'altro? No, io direi a questo elettorato quattro cose molto semplici. La prima è rivolta a noi politici, dobbiamo essere in grado di esprimere meglio il senso che la politica è partecipazione o se vuole, se mi consente, donazione al bene comune. Ovviamente i politici sono degli uomini come tutti gli altri, hanno delle debolezze, ma questa impressione è necessario che anche noi si faccia un esame di coscienza, tutti quanti, non solo quelli del centrodestra, ma in modo particolare quelli del centrodestra, e questa impressione si riesca a dare. La seconda cosa, non si può ragionare con la serenità, un po' mi permette, lo dico insomma in punta di lingua, un po' ipocrita di La Torre. Ci sono delle cose che accadono che sono particolarmente gravi e su queste bisogna saper reagire. Insomma, quanto è accaduto a Trani non è una cosa comune, perché se facciamo passare il criterio che il Presidente del Consiglio può essere intercettato anche su questioni privatissime e poi un CSM ha fatto benissimo Napolitano a intervenire e a ricordare al CSM che in questi casi le inchieste sono quasi un atto dovuto e il CSM si può esprimere dopo che le inchieste sono state fatte, non contestarle nella fase nelle quali queste avvengono, le ispezioni, non le inchieste. Ecco, allora, su queste cose non è necessario assolutamente reagire. La terza cosa. Terzo punto, io penso che il voto è anche una cosa comparativa. La sinistra, con la manifestazione di piazza dell'altro giorno a Piazza del Popolo, ha dimostrato di essere ancora al tempo dell'Unione, di non riuscire a rappresentare altro che una unione anti-berlusconiana, e questo è troppo poco per il Paese. La quarta, noi dobbiamo dare l'impressione di andare avanti. Io mi aspetto da Berlusconi un discorso de Gasperiano, duro sulle deviazioni che ci sono state di ordine istituzionale, ma moderato, ma anche che dica persino all'opposizione: attacchiamo il tema delle riforme dello Stato, e facciamole insieme. L'impressione che noi dobbiamo dare in questa settimana è un Paese che va avanti. Io devo dire che sposo questo auspicio. Credo che perderemmo se io e Quagliariello facessimo una scommessa su questo. E la mia opinione personale, me ne assumo responsabilità, è che invece forzando i toni, come temo che Berlusconi vorrà fare e farà, renderà ancora più evidente la difficoltà di quell'uomo col suo elettorato più moderato, che si è stufato di dover rispondere all'appello di una specie di difesa degli interessi di Berlusconi. Lo dico molto duramente ed esplicitamente: sono 15 anni, questa storia o produce effetti di governo e cambia degli ordinamenti, oppure non vale più la pena di essere sposata per chi è moderato, non astenendosi, con comportamenti di voto. Io non sono tanto per stare a casa, io sono però perché 15 anni siano 15 anni e perché gli interessi collettivi, per chi è moderato, valgano di più di interessi, per quanto importanti, ma che restano privati, punto. Questa è la mia opinione, non la vostra, ma rispetto alle posizioni di chi in politica non può dire fino in fondo come la pensa, ma tanti italiani penso che la pensino anche così, e sono un po' stufi di dover ogni volta sentirsi dire al voto, perché il povero Berlusconi è in pericolo. Ma di quale pericolo stiamo parlando? Scusate. Grazie in regia a Paolo Corleone, grazie in redazione Alessandro Marco Tulli, linea al giornale radio, e appuntamento a domani.